Bene, allora iniziamo così la serata con una splendida occasione di incontrare nuovamente Fabio Todero, che viene dal Friuli Venezia Giulia, ci porta sempre delle interessanti pubblicazioni. Questa volta è il suo libro La patria alla frontiera, storia dell'irredentismo adriatico. L'abbiamo conosciuto tanti anni fa, forse addirittura 20 anni fa, e appunto sempre ci ha portato una visione dell'irredentismo e una visione della storia da un'altra angolazione, nel senso proprio squisitamente geografico, ecco, però che ci serve anche per ampliare un po' il nostro orizzonte e a fare alcune considerazioni di altro tipo, ma soprattutto anche per inserire anche la nostra storia in un contesto diverso. In questo senso ci aiuta molto anche Andrea Di Michele, che è un'altra persona che spesso ci accompagna da tanti anni alla scoperta di nuovi libri, di nuovi argomenti, di tematiche da approfondire, anche con un percorso nostro individuale che la biblioteca auspica venga praticato da tutti i lettori, da tutte le lettrici, perché noi siamo qui anche per questo, anzi soprattutto per questo. Andrea Di Michele lo conosciamo, della Libera Università di Bolzano, e che ringrazio anche lui appunto perché ci aiuta e ci suggerisce spesso tanti contenuti nuovi. Non mi dilungo oltre, ma vi segnalo l'appuntamento di domani con Sandro Pecchiari, che ci porta la sua antologia intitolata Atropolachesi Cloto, una postfazione di Ivan Fedeli. Ecco, un nuovo libro di poesie. Abbiamo con noi anche la Nadia Mazzardis, e quindi ci racconterà, con questo titolo ampiamente evocativo della mitologia classica greca, e ci racconteranno e ci leggeranno queste poesie. Abbiamo invece martedì 27 maggio l'occupazione italiana in URSS, la presenza fascista fra Russia e Ucraina. L'autore è Raffaello Pannacci e verrà con noi come moderatrice Floriana Gavazzi. Infine andiamo avanti il 4 di giugno con il nostro gruppo di lettura localmente. Questa volta sarà con noi Lorenzo Ferrarese, che presenterà tra l'altro e discuterà sul libro Il carosello delle anime. Questo così, insomma, un piccolo carosello di quelle che sono le prossime iniziative, ma adesso dedichiamoci con interesse e attenzione al nostro ospite, anzi ai nostri ospiti, che ringrazio ancora e auguro a voi tutti una buona serata. Bene, allora mi sembra che funzioni, sì. E allora buonasera anche da parte mia. Io abbiamo deciso un po' di fare così, come anche la volta scorsa, no? E cioè una breve, diciamo, introduzione da parte mia sul libro e poi qualche domanda, diciamo così, che vuole essere un po' qualche spunto su alcuni temi centrali all'interno del libro, e poi l'autore risponderà in maniera appunto più approfondita e mostrandoci anche delle immagini che sono riferite appunto al contenuto del libro. Allora, intanto una breve presentazione sull'autore. Fabio è dottore di ricerca in italianistica, è ricercatore dell'Istituto regionale per la storia della resistenza e dell'età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia, e si occupa di molti temi legati a quella che spesso si chiama confine orientale, o meglio frontiera adriatica, e temi legati alla Grande Guerra, alla memoria, la storia della Venezia Giulia in genere, e ha curato delle mostre, ha organizzato convegni, progetti scientifici, eccetera, ha pubblicato diversi volumi, ne cito alcuni. E Le metamorfosi della memoria, La grande guerra tra modernità e tradizione, Morire per la patria, I volontari del litorale austriaco nella grande guerra, Di un'altra Italia, Miti, riti e simboli dell'impresa fiumana, insieme a Luca Manenti, e 2 anni fa, se non sbaglio, ha pubblicato un altro libro che ha presentato sempre qui a Bolzano, in questa biblioteca, e Terra irredenta, terra incognita, l'ora delle armi al confine orientale d'Italia, 1914-1918. Ecco, e il libro invece che presentiamo oggi, La patria alla frontiera, storia dell'irredentismo adriatico, ricostruisce in maniera efficace e seguendo un filo cronologico le vicende dell'irredentismo adriatico a partire dalla sua nascita, intorno alla seconda metà dell'Ottocento, fino alla sua conclusione, che l'autore individua nel 1954 con il ritorno definitivo, oddio, definitivo nella storia non si può mai usare, insomma, con il ritorno di Trieste all'Italia dopo la parentesi di incertezza a seguito della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, il tema, diciamo, del disegnare, del tracciare i confini dell'italianità, che è un tema che si ritrova anche nei nostri territori, è un tema che caratterizza moltissimo la storia dell'altro confine, con elementi di similitudine, ma forse secondo me sono quasi di più gli elementi che segnalano la diversità, ecco, tra i due casi. È un caso molto più complesso, molto più frastagliato, quello della frontiera adriatica, un caso relativamente più semplice, diciamo così, dal punto di vista del confine etnico-nazionale, linguistico, geografico nel nostro territorio. Ecco, e quindi il tema del tracciare i confini, di definire dove arrivava, diciamo, la pretesa di italianità e su quell'area geografica, è un tema, diciamo, tutt'altro che banale, che coinvolge una classe politica, culturale di quel territorio, ed è su quell'area che si concentra l'analisi dell'autore, con la nascita di un movimento nazionale che viene collocata attorno agli anni 60 dell'Ottocento, anche se già col 1848 i moti di quell'anno si determina una scossa non solo nella comunità italofona, e questo il libro lo mostra, lo accenna in diversi punti, ma anche in quelle di lingua croata e slovena. E questo è anche un tema che secondo me vale la pena approfondire, no? Perché noi ragioniamo sempre sull'irredentismo italiano, e allora bisognerebbe capire se fenomeni simili vengono vissuti dalle comunità che parlano altre lingue, che abitano lo stesso territorio, e se vengono vissuti con la stessa cronologia o cronologie simili oppure no. E questa è una delle prime questioni che pone il libro, no? Da cui parte proprio il libro, quando cita un testo di Attilio Tamaro, uno storico nazionalista che dall'irredentismo poi arriverà al fascismo, che sostiene in maniera, come dire, così certa, sicura, senza dubbi, intanto il collegamento diretto tra risorgimento, irredentismo e fascismo, ma poi anche una sorta di, come dire, riduce questo fenomeno alla dimensione italiana, no? Come se l'irredentismo potesse essere esclusivamente un fenomeno, sia stato esclusivamente un fenomeno italiano. E quindi una delle questioni dalle quali prende avvio il volume è come sia definibile l'irredentismo, e l'autore lo inserisce nel più ampio contesto europeo, quello della sacralizzazione della politica e della nazionalizzazione di massa, e quindi un fenomeno tra gli altri, diciamo così, che interessa anche altre comunità nazionali che si trovano in una condizione di divisione, di separatezza, diciamo così, da una patria d'elezione alla quale aspirano ad unirsi. Ecco, il volume quindi prende avvio da questa fase, a metà del secolo, a questa fase così di nascita di questo fenomeno, e poi ne segue un po' gli sviluppi, no? Tra le varie cose, ad esempio, individua negli anni 70 un cambio generazionale all'interno di questo irredentismo, con un attivismo nuovo di una generazione più giovane, molto più aggressiva, che, diciamo, interviene anche sul fronte della violenza o degli attentati, ma anche con forme nuove di mobilitazione della popolazione, no? E la nascita di tutta una serie di associazioni legate al mondo culturale, legate allo sport, all'escursionismo alpino, le società alpinistiche, le società ginnastiche, l'inaugurazione di monumenti patriottici, eccetera. E poi qui si inserisce la figura di Oberdan o Oberdank, su cui magari si dirà qualche cosa poi, e quasi, come dire, una figura anche tragica, nel senso, cioè non anche, sicuramente una figura tragica, visto che verrà ucciso, ma quasi mosso da una volontà di immolarsi per la causa, la volontà di avere un martire della causa nazionale. Ecco, il libro prosegue con tutta questa attività e sottolineando le caratteristiche di queste di questo associazionismo irredentista nazionalista in ambito scolastico, culturale e sportivo, e poi anche ancora una volta uno spostamento, un cambiamento, e cioè la progressiva convergenza tra questo irredentismo, diciamo così, liberatore, che così si presenta, di un territorio posto sotto un'altra sovranità, con un nazionalismo molto aggressivo che nella conquista del litorale non vede tanto e non vede solo la, diciamo appunto, la redenzione degli italofoni, ma vede anche il primo passo per future espansioni imperialistiche. Quindi abbiamo la fase del nazionalismo aggressivo che guarda verso l'esterno e che ha un ruolo nella Grande Guerra, ha un ruolo nell'ingresso dell'Italia nella Grande Guerra e nelle aspirazioni che l'Italia ha a seguito della vittoria, e quindi il mito della vittoria mutilata e la radicalizzazione dell'irredentismo, per arrivare naturalmente al fascismo che, e Tamaro lo dice e il fascismo lo ribadisce, si presenta come l'unico e vero erede del movimento irredentista, si appropria in via esclusiva dell'eredità dell'irredentismo, esasperando il suo carattere, come dire, antislavo. Ecco, e sulla questione anche del razzismo antislavo magari possiamo anche poi dire qualche cosa, se si possa definire tale l'atteggiamento di disprezzo che indubbiamente viene espresso già dal nazionalismo fine ottocentesco italiano e poi dal fascismo nei confronti delle popolazioni croate e slovene, se si possa definirsi veramente una forma di razzismo o qualche cosa d'altro. E ecco, il libro poi ovviamente dedica una parte importante a questa fase del fascismo, però non si chiude lì e va a, come dire, a spostarsi, ad arrivare, a chiudersi in realtà con il periodo immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale. E uno dei temi che secondo me emerge molto bene dal libro è il tema, diciamo così, della continuità, cioè il tema della continuità di linguaggi, e suggestioni, anche di questa visione, come dire, aggressiva e di presunta superiorità italiana nei confronti delle altre popolazioni, la missione civilizzatrice nei confronti di popolazioni considerate barbare, senza storia, senza cultura, che sarebbero, come dire, destinate naturalmente ad essere italianizzate, no? E quasi, come dire, dovrebbero quasi essere grate, ecco, di subire questa italianizzazione vista come una progressione di civiltà. Ecco, questo elemento di continuità nel linguaggio anche, e molto spesso nelle persone, è un elemento che noi ritroviamo tra fine Ottocento e poi Italia liberale e poi Italia fascista e anche dopo il 1945 in maniera molto chiara, molto forte. E allora io partirei subito con una domanda a Fabio, e cioè anche sul concetto di irredentismo, no? Sul termine, sulla parola. Intanto il significato e anche, come dire, la valenza religiosa, fino a che punto c'è la consapevolezza di utilizzare un termine che ha evidentemente una valenza religiosa, perché richiama alla redenzione. E poi magari un attimino darci qualche informazione sulla cronologia, anche chi conia questo termine e quando inizia ad essere utilizzato. È utilizzato più in Italia o è utilizzato più nelle terre, appunto, irredente? Bene, allora innanzitutto grazie per questa occasione, grazie alla Biblioteca Claudio Augusta, grazie ad Andrea Di Michele e a chi è intervenuto, a chi interviene questa sera qui. Allora, soltanto una premessa anche relativamente alle cose che dicevi poco fa. In realtà, come sottotitolo, la proposta era stata quella Storia degli irredentismi adriatici. poi l'editore l'ha declinato al, così, al singolare, ma effettivamente lo sforzo è stato quello di prestare attenzione non soltanto al fenomeno dell'irredentismo italiano, ma appunto anche a quello nato in ambito sloveno e croato, con una cronologia diversa, ma per ragioni che esporrò tra breve. Allora, quando si comincia a parlare di irredentismo, generalmente in tutte le storie più o meno consacrate del fenomeno, e non ce ne sono tante, in realtà la bibliografia scientifica sull'irredentismo è davvero molto magra, parlano comunque di un'occasione che è il funerale del padre di Matteo Renato Imbriani. Siamo a Napoli nel 1877, quando nell'allocuzione che Matteo Renato Imbriani tiene per commemorare il padre usa il termine terra irredente, da cui appunto irredentismo. Allora, intanto il termine sarà utilizzato dalla stampa austriaca con una funzione di dileggio appunto del movimento, mentre invece il movimento si definirà irredentista, nasce un'associazione che è l'Associazione In Pro dell'Italia Irredenta, sempre per iniziativa di Matteo Renato Imbriani, e questa sarebbe la primogenitura del fenomeno. In realtà la parola irredentismo ricorre già in testi precedenti, in particolare in un testo che risale all'epoca della Seconda Guerra di Indipendenza, ad opera di uno studioso friulano che aveva peraltro animato una rivista triestina che si chiamava La Favilla e che è considerato un po' il conciliatore triestino per i suoi termini liberali, per l'apertura a diverse realtà culturali e anche al mondo slavo, tra l'altro, ma anche l'attenzione a tanti aspetti della società contemporanea, in cui già in un opuscolo dedicato appunto a Trieste, l'Istria e la questione, diciamo, italiana, ricorre il termine terre redente. Come spiegare queste ricorrenze? Beh, c'è assolutamente consapevolezza di parlare di qualche cosa che ha un valore assolutamente sacro. Non soltanto siamo nell'epoca della sacralizzazione della politica, ma siamo anche in un ambito culturale, e questo è l'ambito di culturale da cui nasce, in cui matura l'irredentismo delle origini, e il mondo di Mazzini che parla della religione della patria, laddove si parla di, appunto, di patria come un concetto assoluto, quasi trascendente, appunto. Per cui c'è piena consapevolezza di fare ricorso a un termine che ha molto a che fare con la religione. È interessante anche segnalare il fatto che chi lo utilizza generalmente ha un'estrazione radicalmente anticlericale. Quindi c'è una religione della patria assolutamente alternativa alla religione cattolica, d'altra parte è su queste basi che si sviluppa in Italia lo Stato liberale, e quindi appunto si considera la patria come un valore assoluto e la redenzione, diciamo così, di quelle aree che erano ancora appartenenti a un'altra realtà statuale, che nel caso specifico era evidentemente l'impero e poi la duplice monarchia asburgica, come un compito altrettanto sacro da compiere. Però mi pare interessante e importante sottolineare proprio questa nascita del movimento irredentista da un ambito assolutamente democratico, mazziniano, garibaldino, ecco, per dirla, il primo presidente dell'Associazione In Pro dell'Italia Irredenta, il generale Avezzana, che aveva cominciato giovanissimo nei moti nel 21 e accompagna, fa anche lui il rivoluzionario, il patriota per la libertà del Messico, quindi un eroe dei due monti un po' in sedicesima, poi segue l'eroe dei due mondi a tutti gli effetti lungo tutta la sua esistenza, ecco. Sì, e questa cosa che dicevi prima, appunto, che l'idea era quella di chiamarla storia degli irredentismi, è effettivamente una cosa che si nota, no? Cioè questa attenzione per l'irredentismo slavo, ecco, per semplificare. E un tema legato a questo è, ed è un elemento forse spesso trascurato, cioè il fatto che sia esistito un momento in cui, come dire, questi irredentismi immaginavano possibile un'alleanza tra i diversi, diciamo così, nazionalismi, cioè quando ancora sotto l'Austria il movimento italiano, croato e sloveno immaginavano, come dire, di sostenersi a vicenda in chiave anti-asburgica. E a un certo punto invece, e questo magari intorno al 1848, ai moti, in quella fase là, e invece molto presto, diciamo così, si collocano su campi avversi, no? Ecco, quindi questa idea di questi irredentismi che possono, diciamo così, convivere, quanto dura? E da chi è animata e che fine fa, diciamo così, questa aspirazione che oggi ci sembra, come dire, quasi impossibile, no? Allora, qua bisogna operare un distinguo, perché da quando si può utilizzare e in che casi si può utilizzare il termine irredentismo? Nel momento in cui una comunità nazionale rimasta al di fuori dei confini di uno Stato nazionale che nel frattempo si è realizzato e si è costruito, aspira appunto ad entrare a far parte di quello Stato, con evidentemente invocando un cambiamento di confine. Se quindi di irredentismo italiano a pieno titolo si può parlare soltanto dalla nascita del Regno d'Italia, quindi dal 1861, poi con tutte le varianti del caso bisogna davvero aspettare Briani, ma già ci sono dei segnali di un movimento nazionale italiano all'interno dei confini della duplice monarchia, almeno alla frontiera adriatica. Di irredentismo sloveno e croato si potrà parlare a pieno titolo da quando nel dicembre del 1918 nasce per queste comunità uno Stato di riferimento, che sarà lo Stato del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Sloveni e Croati nel frattempo sì, hanno costruito e animato altrettanti movimenti nazionali, i quali ben presto si trovano a collidere con il movimento nazionale italiano, perché di mezzo c'era fondamentalmente l'amministrazione e il controllo del territorio. E quindi difendere ciascuno la propria comunità nazionale, ampliare il numero degli aderenti alle rispettive comunità nazionali, significava poter contare di più nel controllo, appunto, nell'amministrazione, e la scuola in questo senso diventa un terreno di battaglia dei vari movimenti nazionali che si sviluppano e si trovano in competizione, e lo saranno molto a lungo, nel territorio della frontiera adriatica. Per cui le utopie, diciamo, di collaborare e di unirsi per abbattere la monarchia asburgica è veramente un'utopia di brevissima durata, anche in seno agli ambienti più democratici dell'irredentismo italiano, e questo sarà pure un elemento ricorrente. Posto che gli interessi dei diversi gruppi nazionali finisce per confliggere, quali saranno i margini possibili di collaborazione? Detto che il termine irredentismo ricorrerà in molti altri ambiti territoriali, nell'Europa della monarchia asburgica, del pre-prima guerra mondiale, per ritornare poi anche in altri contesti, è vero che nel movimento repubblicano e irredentista che nasce nella Venezia Giulia, nella regione Giulia, nei primi del Novecento, si parla di possibili collaborazioni con il mondo slavo, ma fissando dei paletti molto precisi, ovvero quelle collaborazioni con il mondo slavo ci poteva essere laddove i giovani slavi si fossero lasciati affascinare dal verbo appunto mazziniano, il che sembra utopistico ma non è poi così lontano dalla realtà, posto che anche gli attentatori di Sarajevo hanno come punti di riferimento ideale sicuramente l'anarchismo e quei metodi di lotta, sicuramente il nichilismo russo e quei metodi di lotta, ma anche il Mazzini della teoria del pugnale, il Mazzini anti-tiranni e così via dicendo, e in Oberdan vedono una specie di fratello maggiore cui ispirarsi. Quindi prima condizione. Seconda condizione, se è vero che l'erba dei vicini è sempre più verde, nel caso dell'irredentismo o del movimento nazionale italiano in confronto ai due movimenti nazionali sloveno e croato, le cose non vanno così, perché si pensa sia una possibile collaborazione, che so, con gli slavi lontani, quindi appunto ad esempio con i serbi, non certamente con gli sloveni e i croati, che invece sono visti come assolutamente succubi alle politiche giudicate repressive naturalmente dal mondo irredentista della duplice monarchia asburgica. E su questo, diciamo, irredentismo slavo, no? Che caratteri ha? Diciamo, possiamo usare le stesse categorie di quello italiano, nel senso, conosce le stesse fasi, ad esempio l'uso della violenza e la disponibilità a uccidere, no? Quello che poi in maniera molto facile si definisce ovviamente il terrorismo, no? Il fatto tra lotta di liberazione, irredentismo e terrorismo, e come facciamo a collocare, ecco, dal punto di vista anche definitorio, no? Come ci muoviamo su un terreno così, così delicato, no? Oberdan era un terrorista, lo possiamo definire come tale? L'irredentismo croato e sloveno conosce più o meno le stesse fasi, da una parte un inizio più, diciamo, teorico e poi una pratica della violenza molto più esplicita, eccetera. Allora, dunque, per quanto riguarda la parola terrorismo, io credo che bisogna prestare attenzione, nel senso che l'opinione pubblica contemporanea è molto sviata, no? Su quel bellissimo libro di Francesco Benigno, proprio sul terrorismo, che è un testo veramente di riferimento fondamentale. Oggi, quando diciamo, usiamo la parola terrorista, pensiamo all'11 settembre, oppure alle Brigate Rosse, al terrorismo nero, che talora si tende un pochino a dimenticare, ma che insomma ha praticato metodi di lotta molto violenti e di grande impatto collettivo sulla collettività, come ben sappiamo. Certamente le pratiche di lotta che vengono seguite dai primi redentisti, i giovani, che giustamente dicevi tu, sono pratiche che predicano l'uso della dinamite. Ecco, un'organizzazione che nasce a Trieste, una piccola organizzazione clandestina naturalmente, siamo nel 1878, e che si chiama la Giovane Trieste, evidentemente ispirata a Mazzini, dice esplicitamente: noi siamo la dinamite vivente. Ecco, e esalta l'utilizzo degli esplosivi. Vengono utilizzati? Beh, c'è tutta una lunga stagione nel irredentismo adriatico, che va dagli anni 70, ma con qualche segnale già alla fine degli anni 60, fino quasi alle soglie della prima guerra mondiale, in cui si ricorre a degli ordigni esplosivi. Molto spesso sono dei petardi, quindi gli ordigni più rudimentali e anche, ringraziando il cielo, insomma, più innocui. Qualche volta si cerca di utilizzare la dinamite. Accade per esempio sul bastione del castello di San Giusto, che era anche carcere e quindi considerato una fortezza, insomma considerato un simbolo dell'oppressione asburgica. Piovono delle bombe all'Orsini, con purtroppo conseguenze letali, a Trieste, sulla folla nel 1882, proprio all'altezza del mancato attentato di Guglielmo Oberdan alla Coppia Imperiale, che avrebbe dovuto visitare il capoluogo adriatico. Pochi anni dopo si trova sulla ferrovia che univa Trieste all'Istria, in occasione di un nuovo viaggio di Francesco Giuseppe, una cartuccia di dinamite, quindi una pratica consapevolmente ispirata a metodi di lotta anche violenti, insomma, di persone comunque disposte a tutto. E c'è tutta una rete clandestina, ecco, ci sono dei fondi d'archivio molto belli conservati all'archivio della centrale della Società per la Storia del Risorgimento di Roma, in cui ci sono questi personaggi che si scrivono, si rivolgono gli uni agli altri dicendo: il signor 21 ha appuntamento col signor 56, il pacco arriverà da Udine. E il pacco in realtà ha tutto ciò che serviva per sviluppare ordigni esplosivi. Qualche volta degli irredentisti vengono pizzicati dall'autorità di polizia asburgica, ci sono ad esempio dei piccoli commercianti, c'è un droghiere che nel retrobottega conservava degli oggetti evidentemente destinati alla produzione di esplosivi. Ecco, la pratica della violenza è sicuramente presente nelle organizzazioni irredentiste slovene e croate. Anche qui c'è una differenza generazionale. Mentre i giovani, mentre gli anziani, ecco, liberali o cattolici sloveni e croati che aderiscono e danno vita a organizzazioni patriottiche sicuramente contrarie all'amministrazione italiana, ma sin da subito, sin dal 1918, attenzione, i giovani fanno ricorso a metodi molto più spicciativi e molto violenti, che lo sono con un grado di violenza superiore. Sono, ecco, siamo negli anni 20 del Novecento e c'è tutta una serie di attentati per cui vengono colpite persone accusate di collaborazionismo, di connivenza con il fascismo, e ci sono anche degli attentati dinamitardi, quello più famoso è quello alla sede del Popolo di Trieste, che era un po' la versione triestina del Popolo d'Italia, quindi l'organo ufficiale del Partito Nazionale Fascista, e al Faro della Vittoria, che è un monumento che Trieste celebrava la vittoria italiana nel 1918, ci scapperà in questo caso un morto e le conseguenze saranno quelle della fucilazione di questi quattro giovani militanti sloveni, tra loro anche un croato, a Basovizza. Non voglio, diciamo, insistere su questo tema, però sono curioso perché non mi sembra di averlo ritrovato, e cioè in questi primi, quelli degli anni 70, no? 1870, questi giovani che usano questi petardi, no? Che appunto sono dei petardi, non è dinamite, poi usano anche la dinamite. Però mi chiedevo, c'è in questi circoli una riflessione sulla... Cioè si mette in conto, va bene l'uso della violenza, l'esplosivo, però si mette in conto la possibilità di uccidere delle persone che non sono rappresentanti delle istituzioni, dello Stato oppressore, eccetera, eccetera. Però mi chiedevo se ci sia stata una riflessione sulle eventuali conseguenze, se vi è la disponibilità e la presa d'atto che questo può portare alla morte. Allora, non c'è una riflessione teorica come quella abbondantissima e importante che c'è nel mondo dell'anarchismo, del nichilismo e così via dicendo. C'è la disponibilità a fare uso di questi strumenti, e nel caso di Oberdan c'è anche la disponibilità evidente alla pratica di una violenza estrema, cioè di fatto c'è la progettazione di un attentato alla vita della coppia imperiale. Così come c'era consapevolezza nel fatto che mettere una cartuccia di dinamite sotto un convoglio ferroviario che avrebbe portato Francesco Giuseppe a destinazione avrebbe provocato dei danni paurosi. Non c'è però una più adeguata riflessione teorica in merito a questa prassi di lotta. Sono veramente molto giovani, nei casi dei fondatori della Giovane Trieste si parla di persone di età intorno ai 20 e anche inferiore ai 20 anni. Però questo è interessante, cioè ci sono delle pratiche di lotta intorno alle quali una riflessione teorica, almeno nelle fonti che ho potuto consultare, non ci sono fondamentalmente. come se si fossero assorbiti, diciamo, assorbite o intraviste nelle pratiche di lotta di altre realtà, di altre anche componenti sociali, in maniera forse un pochino acritica, forse a tratti un pochino superficiale, ecco. E ecco, un tema che è anche molto presente, anche per la tua formazione, diciamo, di persona che ha studiato la storia della letteratura, è quello appunto letterario, no? E cioè, come dire, l'irredentismo riceve anche un alimento, c'è un ruolo importante in quello che tu chiami il canone letterario irredentista, che è simile a quello che era stato il canone risorgimentale italiano, infatti lo definisci un po' un risorgimento in ritardo. Ecco, che ruolo ha la letteratura, la poesia, e chi sono i protagonisti? Sono protagonisti italiani, cioè del Regno d'Italia, che partecipano e alimentano e creano questo canone letterario irredentista, o sono invece italiani d'Austria? Allora, questa è una bella domanda, soprattutto l'ultima parte interessante, ma in linea di massima l'irredentismo delle origini, soprattutto, ma non soltanto, trova sicuramente alimento in molti immigrati dal Regno. Ce ne sono anche che vengono da lontano, da Andria, ecco, dalla Puglia, ecco, tanto per fare qualche esempio. Sono appunto mazziniani, garibaldini, che hanno tutta una rete di relazioni, studiata molto bene proprio da Luca Manenti, con organizzazioni irredentiste diffuse abbastanza largamente, anche se si tratta di gruppi di poche persone, in tutto il Regno d'Italia. Però è anche vero che la letteratura, nella costruzione di quella che viene definita la comunità immaginata, ha una funzione di primissima importanza, no? È un tessuto comune di valori, a partire dalla lingua, naturalmente, la lingua nazionale come fattore di identificazione. Il coltivare le patrie lettere e le tradizioni letterarie appartenenti alla comunità degli italiani di là dal confine è un modo per sentirsi un'unica comunità, sentirsi tutti uniti ben al di là, appunto, del dover starsene di qua o di là da un confine, insomma. E certamente in questo un ruolo fondamentale ce l'hanno la famiglia, e quindi l'educazione che si riceve in famiglia, fossero queste di immigrati dal Regno o di autoctoni, ecco, doc, nati, cresciuti da sempre a est del confine italiano. Sul ruolo degli insegnanti e della scuola, ecco, penso ad esempio che a Trieste ci sono delle istituzioni scolastiche dove operano moltissimi insegnanti trentini che arrivano a Trieste e che sono a loro volta irredentisti, e quindi costruiscono intorno a sé delle giovani generazioni tutte strette intorno ai valori della patria. E questi valori della patria come vengono propagati? Attraverso il culto dei classici, innanzitutto, quindi anche il tema della latinità come elemento così di generativo di un patriottismo anche in senso italiano, quindi con clamorose forzature anche sul piano culturale, e poi tutta la grande tradizione italiana, Dante in testa, ma anche i contemporanei, penso a De Amicis, penso a Carducci. Carducci viene visto veramente come padre putativo dei giovani irredentisti, e i viaggi che appunto Carducci e De Amicis compiono nella Venezia Giulia sono viaggi trionfali che lasciano il segno. Proprio uno dei frutti di un viaggio di Carducci a Trieste è il Saluto Italico, che è un po' un manifesto così del movimento irredentista, così come dicevo Dante, ma così come anche il libro cuore di De Amicis, tutti veicoli, peraltro, e la letteratura è uno di questi veicoli, proprio di quei processi che vanno sotto il nome di processi di nazionalizzazione di massa. A dire poi su parallelismi con i movimenti nazionali sloveno-croato, prima facevi riferimento al tema dello sport, dell'associazionismo sportivo, e anche lì si hanno dei fenomeni assolutamente analoghi. Nella regione Giulia tra gli italiani c'è la società ginnastica triestina o la società ginnastica goriziana, nel mondo sloveno e croato, arrivando dalla Boemia, si diffonde il fenomeno dei SOKOW, quindi di associazioni ginniche, che a loro volta hanno il compito di formare i corpi di quei giovani, in questo caso sloveni e croati, alla difesa della propria comunità e un domani di una propria patria d'appartenenza. Sì, questo movimento che dicevi di insegnanti trentini che vanno a Trieste, c'è anche il movimento contrario effettivamente, di insegnanti triestini che arrivano nel Trentino, a Rovereto, a Trento, e sono loro i portatori, diciamo così, di questa italianità. E per fare un passo in avanti, no? Cronologico, e arrivare al fascismo. No, cioè, è stata a lungo anche una discussione storiografica sui rapporti tra il nazionalismo italiano e il fascismo, cioè il nazionalismo che nasce prima, che è imperialista, che si impegna per la guerra, che ha questa visione imperiale appunto dell'Italia, che poi si fonde, no, anche dal punto di vista, diciamo, formale, no, l'Associazione Nazionalistica Italiana entra, si scioglie ed entra nel Partito Fascista dopo la marcia su Roma, e c'è sempre questo dibattito storiografico, diciamo, tra chi ha assorbito chi, cioè è il fascismo, sono i nazionalisti che diventano fascisti, o sono, come dire, i fascisti che di fatto prendono un programma strutturato e anche una teorizzazione politica che trovano pronta, che è stata preparata dal nazionalismo, la fanno propria, però di fatto è come se diventassero loro dei nazionalisti. Ecco, in questo gli irredentisti, no? Ecco, gli irredentisti e il fascismo, che ruolo hanno? Anche qui sono loro che portano il tema, alcuni temi centrali dentro il fascismo, o sono loro che, diciamo, sposano il fascismo e diventano loro fascisti, e quali temi e quali, diciamo, argomenti, linguaggi, questioni portano questi redentisti nel fascismo, e che ruolo anche nella politica, nelle istituzioni riescono a ritagliarsi? Allora, una premessa: l'irredentismo non è un movimento politico monolitico, ci sono molte anime nell'irredentismo, e questo per esempio era stato studiato e capito molto bene da Scipio Slataper in un saggio molto famoso sulla voce, dedicato al fenomeno in due puntate tra l'altro della rivista Fiorentina, in cui distingue le diverse anime dell'irredentismo. E ad esempio tra Slataper, che pure irredentista è, anche se Slataper parla di irredentismo culturale, è il leader dell'irredentismo imperialista, l'altrettanto più giovane di Slataper, Ruggero Timeus, si arriva praticamente alle soglie di un duello che poi non si concretizza, così come un altro personaggio che appartiene a questo mondo dell'irredentismo culturale, che è Gianni Stuperich, anche lui con Timeus viene a male parole, perché siamo di fronte a delle concezioni molto diverse. Dicevamo, l'irredentismo ha delle origini garibaldine, mazziniane, quindi di per sé democratiche, con dei limiti, che è per esempio l'atteggiamento nei confronti del mondo slavo. Quindi diciamo che quella parte dell'irredentismo democratico si inabissa, salvo riemergere poi in parte negli anni dell'antifascismo in organizzazioni come Giustizia e Libertà, e poi nei primi nuclei del Comitato di Liberazione Nazionale di Trieste o di altre realtà, naturalmente della Regione Giulia, quindi torna alla luce in queste vesti, E tra l'altro dalle nostre parti, così come a Bolzano d'altra parte, un irredentismo antitedesco ha di che rifiorire, visto che anche nella regione Giulia si ha la nascita di una zona d'operazioni ad amministrazione praticamente nazista, e quindi la radice dell'irredentismo anti-austriaco trova nuova linfa, insomma, in un atteggiamento di lotta da portarsi contro nuovamente l'occupatore nazista, oltre che naturalmente contro il fascismo. Per altri invece, i redentisti, l'arrivare nel fascismo è un fenomeno altrettanto naturale, lo è sicuramente per gli redentisti di matrice nazionalista, ma anche per alcuni redentisti di matrice repubblicana. Ecco, prima citavamo Bruno Coceani, ecco, era un repubblicano che poi si fa fascista, ma sono tanti i percorsi. Molti ex aderenti all'irredentismo fanno carriere, anche carriere importanti. Tamaro, ambasciatore a Vienna, ad esempio, Suvic diventerà ministro addirittura dell'Italia fascista, portando con sé quali valori? Beh, oltre al nazionalismo esasperato, il fortissimo antislavismo. Ecco, il fascismo, infatti, di antislavismo non ha bisogno di inventare nulla, perché trova veramente un pacchetto assolutamente pronto nell'atteggiamento antislavo molto forte, che possiamo tranquillamente definire razzista, anche se non è un razzismo biologico, nel mondo dell'irredentismo. Sì, e tu mostri anche, lo hai accennato adesso, e come appunto con il Comitato di Liberazione Nazionale, quindi alla fine della guerra, nel movimento resistenziale, eccetera, quando il confine, diciamo così, viene di nuovo messo in discussione, quindi il territorio è, diciamo, ancora conteso, riemerga, diciamo così, in funzione nazionale, in funzione ancora una volta antislava, però da parte democratica, tutto un bagaglio anche di linguaggi, no? Di riferimenti, di termini, di concetti, eccetera, di slogan, che è abbastanza impressionante da leggere, no? E cioè che rimanda a questo irredentismo, e che questo sì è effettivamente un po' simile anche a ciò che avviene nel nostro territorio, dove anche qui, soprattutto nell'ultima fase, la resistenza, diciamo, italiana è una resistenza molto nazionale, ecco, molto nazionalista, e mira sostanzialmente a mantenere il confine del Brennero, per cui non dialoga con la resistenza di lingua tedesca, eccetera. Ecco, questo tema mi sembra anche interessante, nel senso, questa forza, questa durata, questa lunghissima durata di questo linguaggio che tu fai terminare, diciamo così, nel 1954, no? Cioè l'irredentismo finirebbe in quel momento lì. Però mi pare che molta di questa eredità, no? Soprattutto nella visione, nel linguaggio, in realtà forse vada anche oltre, no? Non c'è un po' un trascinamento anche oltre? Allora, anche qua bisogna distinguere delle fasi e delle consistenze oggettive della sussistenza di un fenomeno, no? Senza alcun dubbio, negli anni del secondo dopoguerra, ci vogliono 9 anni per definire il confine orientale italiano, no? E all'interno di quel percorso ci stanno tantissime cose. Ci sta, per partire dalle origini, la enorme difficoltà di trovare un terreno di intesa comune tra la resistenza italiana e la resistenza jugoslava, che operano sullo stesso terreno, scontrandosi, ma non soltanto tra componenti resistenziali di matrice politica diversa, ma anche all'interno del mondo comunista. Ci sono comandanti partigiani comunisti italiani che, per aver voluto, diciamo, mantenere l'obbedienza alla Federazione del Partito Comunista Italiano piuttosto che a quella che sarebbe stata imposta alla Federazione del Partito Comunista Sloveno, vengono per questo fucilati. una sezione intera nel secondo dopoguerra del Partito Comunista Italiano nella cittadina di Pirano si costituisce come Partito Comunista clandestino, non volendo assolutamente assoggettarsi alle politiche, diciamo, del Partito Comunista Jugoslavo, quindi impersonato naturalmente da Tito. E c'è di mezzo naturalmente il nuovo mondo, la nuova polarità che si crea nel secondo dopoguerra, che è quella tra comunismo e anticomunismo. La continuità poi è determinata anche dal fatto che proprio anche il CLN, ecco, Giuliano, era stato animato da personaggi che si erano fatti le ossa ed erano stati tra i protagonisti del primo irredentismo. Alcuni di chiarissima matrice democratica, penso a Gabriele Foschiatti che finisce a Dachau ad esempio, ma anche altri che vengono deportati in Germania, qualcuno ritorna, qualcuno non ritorna. E che però, ecco, qual è l'unico punto di riferimento ideale nell'Italia devastata, diciamo, anche culturalmente, no? Nel senso della ricchezza delle culture politiche, dal fascismo? E il riferimento è il Risorgimento, non c'è altro per chi è, diciamo, antifascista, ma è anche, non è antifascista e comunista, l'unico riferimento possibile è quello. E in questo sta anche certamente continuità di linguaggio e di atteggiamenti. E l'antislavismo qui, diciamo, viene rinfocolato dagli interessi molto divergenti, naturalmente tra quelli del gruppo nazionale italiano non comunista della regione Giulia e le volontà annessionistiche della Jugoslavia. Sì, tu dici quello, l'unica cosa che resta è il Risorgimento e aggiungerei è la Prima Guerra Mondiale. È la Prima Guerra Mondiale che, ecco, io penso sempre a un episodio bellissimo di uno dei vari film su Don Camillo e Peppone. C'è un episodio fantastico in cui c'è un raduno, un grosso raduno comunista con esponenti nazionali del Partito Comunista nel paesino dei due, e quando stanno per cominciare il comizio i comunisti, Don Camillo, che è un sant'uomo ma anche piuttosto perfido, massacra qual è il punto debole anche di Peppone e dal campanile manda con un altro parlante le note dell'inno al Piave, no? Il Piave mormorava, e a quel punto anche Peppone, che la Prima Guerra Mondiale l'aveva fatta, che cosa fa? Si lascia prendere dall'entusiasmo patriottico e canta il Piave mormorava anche lui a piena voce. E la Grande Guerra, anche in tutta la retorica patriottica acquisita e utilizzata da tutti i ministri democristiani, o ben oltre il 54, su questo siamo assolutamente d'accordo, rimane molto, ma molto, ma molto a lungo. Altra cosa è l'irredentismo. Diciamo che con il 54 un irredentismo che avesse anche un corrispettivo, diciamo, di una pratica politica diffusa, ecco, molto diffusa, soprattutto in quella fase tra la popolazione, finisce davvero il suo compito storico. Questo non significa che non esistano fenomeni residuali, un sussulto, un rigurgito, per esempio, lo si ha alla metà degli anni 70 intorno al tema del Trattato di Osimo, in cui alcuni elementi vengono, ma i morti probabilmente vengono ripescati attorno a una galla, ma voglio dire, se penso al centenario dell'impresa fiumana e a quei quattro signori piuttosto palestrati, forse anche un po' panciuti, che si fanno fotografare con la maglietta nera e con la scritta fiume o morte, insomma, ecco. Però sono fenomeni, diciamo, residuali, marginali? Beh, voglio sperare di sì, anche se in quest'epoca di sovranismi, insomma, non si sa mai che fine si possa fare. E come dicevi prima, non è mai detto nella storia che una cosa sia finita per davvero. Sì, ecco, e su questo concludo con l'ultima domanda, diciamo così, stimolo, considerazione. E riferimento anche a questo, no? Cioè questi fenomeni degli anni 70 probabilmente, come dire, non li possiamo definire irredentisti, no? Se il redentismo lo definiamo come appunto l'aspirazione di un pezzo di nazione, diciamo così, posta al di fuori dei confini, di unirsi alla patria, no? E questo caso forse lo possiamo definire più un movimento nazionalista o anche fascista, neofascista, eccetera. Ecco, e c'è una cosa su cui non sono tanto convinto, non sono forse tanto d'accordo con te, cioè il fatto che tu dica che di irredentismo si possa parlare ancora anche al giorno d'oggi, pur lontanissimo da quella stagione storica, in realtà di confine, no, che tu citi dal Kosovo, la Crimea, il Nagorno-Karabakh, eccetera, eccetera, cioè laddove esista una minoranza al di fuori dei confini e che aspiri a riunificarsi. Ecco, mi chiedo, quindi secondo te ogni rivendicazione nazionale di confine in qualsiasi momento è definibile irredentismo? O il redentismo forse non si dovrebbe limitare a questi fenomeni novecenteschi dove, come sottolinei tu stesso nel libro, c'è questo tema appunto della religione, no? Dell'utilizzo strumentale della religione, quindi della redenzione. E ciò che avviene oggi forse è qualcosa di diverso, no? Cioè non c'è più questo riferimento religioso, diciamo così, ma forse sono soltanto forme di nazionalismo? Beh, mi viene da rispondere dicendo così. Cambiano le parole, ma in che termini cambia la sostanza, no? Oggi tutti parlano e si parla di sovranismo, ma il sovranismo non è una forma di nazionalismo. Certo, le culture politiche, le sensibilità, su questo siamo assolutamente d'accordo, Andrea, sono diverse. Ma sono diverse fino a quando? Fino a che punto? Penso ad esempio alla rinascita di forti movimenti nazionalisti all'indomani del crollo della Jugoslavia. E lì c'è un ripescaggio di valori, di miti, di simboli che hanno molto a che fare con un'idea assoluta di comunità nazionale, di, tra virgolette, patria, eccetera. Penso, con tutto il rispetto naturalmente, ma a certi inni nazionali post-jugoslavi, le cui parole sono insomma molto forti in questo senso, insomma è una diffusa presenza di movimenti nazionalisti che idealmente non sono lontanissimi da quelli del primo Novecento. Se poi questi hanno degli altri nomi e possiamo metterci delle altre etichette, siamo assolutamente d'accordo. Tante cose sono cambiate, ma come dicevi prima, ci sono anche molte linee di continuità. Bene, io ho finito l'interrogatorio, diciamo così, perché ti ho scaricato addosso una serie, direi, sufficiente di domande. Ti ringrazio molto per le risposte, per gli approfondimenti. E a questo punto, se ci sono domande dal pubblico, lasciamo la voce al pubblico. E sono ragioni di politica internazionale che investono direttamente il territorio della regione Giulia. È un percorso a tappe, diciamo, estremamente complicato nelle sue articolazioni, ma in sintesi. 1945, un po' come in tutta Europa, c'è una, diciamo, una suddivisione dei territori occupati da diverse realtà, da diverse forze di occupazione. Dalle nostre parti queste forze di occupazione sono da una parte gli alleati occidentali, gli angloamericani, diciamo, e dall'altra l'esercito popolare di liberazione jugoslavo, riconosciuto dagli alleati a tutti gli effetti. Un periodo di stasi che introduce, in base a degli accordi intercorsi tra gli alleati e gli jugoslavi, una suddivisione del territorio tra una prima zona A e una prima zona B. E questo periodo di interregno, di suddivisione, dura fino al 1947, quando il Trattato di Pace di Parigi fissa l'assegnazione di tutto il territorio della Regione Giulia, tranne, un po' come il villaggio di Asterix e Obelix, tranne una piccola parte. Questa piccola parte comprende la città di Trieste, i cui limiti corrispondono più o meno con la provincia attuale della città di Trieste, e che è una zona A, e una piccola parte dell'Istria non assegnata alla Jugoslavia, che comprendeva i distretti di Capodistria, di Buje, di città, comprendeva Cittanova, eccola, una zona B, che avrebbero dovuto insieme dare vita a un nuovo Stato previsto dal Trattato di Pace di Parigi, che si chiamava Territorio Libero di Trieste. Ora, per ragioni di politica internazionale, gli americani non hanno alcuna intenzione di abbandonare la propria presenza militare in un territorio che diviene territorio di primissima frontiera nei confronti di tutto il mondo comunista, perché in quel momento la Jugoslavia di Tito era vista uno stato potenzialmente satellite dell'Unione Sovietica di Stalin. Poi gli equilibri cambieranno quando Tito fa baruffa con Stalin, esce dal Cominform, però di fatto non viene mai nominato il governatore del territorio libero di Trieste, per cui la situazione rimane a lungo sospesa dal 47 al 54 con questa suddivisione: zona A, amministrazione anglo-americana, zona B, amministrazione jugoslava. Dopodiché, per tutta una quantità di complesse vicende anche diplomatiche, si arriverà finalmente alla definizione di una linea di confine tra l'Italia e la Jugoslavia. Non ne poteva più nessuno di questa situazione, soprattutto gli angloamericani, in particolare gli inglesi, che stavano spendendo un sacco di soldi, e di soldi in casa non ne avevano affatto nel secondo dopoguerra. E per cui si decide sostanzialmente di lasciare zona A all'Italia e zona B alla Jugoslavia, con lo schermo assolutamente fittizio della provvisorietà. E la sistemazione provvisoria, questo non scontenta del tutto gli italiani, e fa fare anche a Tito, non fa fare troppa brutta figura, perché la perdita di Trieste per Tito un bruttissimo, o della potenziale appartenenza di Trieste per Tito un bruttissimo colpo. Fatto sta che questo viene definito, e poi con il trattato di Osimo nel 1975 questa linea di confine provvisoriamente definita diventa definitiva. Però ne passano di anni, dalla fine del secondo conflitto mondiale al 1954, memorandum di Londra appunto, corrono 9 anni, che sono tanti, anzi sono di più, perché si va dalla primavera del 45 all'autunno del 54. Sì, che poi diventano appunto 30 per l'ufficializzazione formale, sì, quindi infatti è una cosa... Sì. Bene. Allora, se non ci sono altre domande, direi che possiamo salutarci, sì, e ringraziare l'ospite. Grazie, grazie Andrea, grazie, senz'altro, grazie.